L'Istituto Nazionale per gli Studi sul Rinascimento fu istituito tra il 1937 e il 1938 e ne fu affidata la presidenza a un scrittore allora abbastanza noto, Giovanni Gabini. Però devo dire che l'Istituto ebbe agli inizi una vita sia abbastanza fruttuosa, ma rapidamente interrotta dagli eventi della guerra. Nel 1943 l'Istituto fu commissariato e riprese la sua attività soltanto nel 1949 sotto la presidenza di un illustre storico dell'arte, Mario Salvi, che ha tenuto questa presidenza per quasi 30 anni. Dopodiché c'è stata un'altra importante presidenza, quella di Eugenio Garani, e da qualche anno la presiedo io. Compito di questo istituto, come dicono i decreti, leggi decreti di fondazione, sarebbe di promuovere, coordinare e diffondere ricerche e pubblicazioni sul Rinascimento. Di fatto questa funzione di coordinamento, come diceva l'Alleanza Internazionale a proposito del suo istituto, non si è potuta mai esercitare, anzi si è assistito e si assiste in Italia alla nascita e alla proliferazione di tutti i locali sul Rinascimento, molto dispendiosi spesso, che portano ad una polverizzazione delle indagini e a una sovrapposizione spesso anche di ricerca. È un istituto di diritto pubblico, non universitario, dipende anzi dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, quindi non ha funzioni didattiche, almeno per il momento, ed è un istituto interdisciplinare. Infatti il nostro consiglio direttivo è composto da storici dell'arte, storici diciamo della storia politica e amministrativa, sebbene questa sia l'attività che l'istituto ha in qualche modo rinunciato a svolgere, proprio per non sovrapporre inutilmente la sua attività a quella dei due istituti storici, quello per il Medioevo e quello per l'età moderna e contemporanea, nel quale ci troveremo sempre a interferire. E quindi abbiamo rinunciato a un'attività di questo genere. Poi ci sono naturalmente filologi, soprattutto filologi della media e bassa latinità, e filologi italiani, perché il pubblico fondamentale è la pubblicazione dei testi, e poi ci sono anche filologi, la storia della filologia. L'istituto pubblica una rivista ormai da molti anni, uscita prima con il nome di Rinascita e che dal 49 ha preso il nome di Rinascimento ed esce con scadenza anna, direi anche molto rispettata. Era una forte collaborazione internazionale. Come collane fondamentali abbiamo la collana degli atti dei conventi. L'istituto ha organizzato convegni ed è tenuto anche a fornire la sua collaborazione all'organizzazione di convegni, soprattutto nella regione toscana, perché abbiamo un accordo appunto con la giunta regionale toscana di CIPO di questa attività. E ha una collana di studi e testi, soprattutto pretendiamo però pubblicare piuttosto testi che studi, una collana intitolata Quaderni di Rinascimento, che pubblica studi e testi di Vino Ormone, e poi la importante collana che ha già visto la pubblicazione di tre volumi delle lettere di Poggio Cacciolini, e nel quale è in corso la pubblicazione dell'epistolario di Marsilio Ficino e di Francesco Barbaro, che ha il titolo dei Carteggi di Manista. Al di fuori di queste condizioni, poi c'è un'importantissima iniziativa della pubblicazione delle lettere di Lorenzo il Magnifico, giunta già al sesto volume, il settimo in stampa, che è un lavoro di lungo termine, diretto da uno dei più illustri storici, direi dell'età dei Medici, Nicolai Gustain, e svolta in collaborazione con il parroco di Londra e con la Renaissance Society of America e con la Harvard Foundation for Renaissance Italian Studies di Harvard, della Harvard University, che è la sede a Firenze e in Italia. Questa, oltre a questo, poi la pubblicazione dei documenti riguardanti lo studio di Ventino fino al suo trasferimento a Pisa, che è in corso di completamento, che alla fine costituirà una importante fonte per il territorio culturale. C'è stata forse un'eccessiva concentrazione dell'Istituto sulla storia del romanesimo e del rinascimento di Fiorentino e Toscano, che questo è un po' inevitabile, data la centralità che Firenze ha avuto in questa epoca. Come programmi per il futuro, ci proponiamo sempre di continuare sulla strada percorsa fino ad oggi, per terminare il presto possibile la prossima impresa delle lettere di Lorenzo, proseguire nella pubblicazione di testi concernenti la storia del Rinascimento, soprattutto italiana, ma anche dei rapporti tra la storia del Rinascimento italiano, il Rinascimento europeo e la storia del Rinascimento, soprattutto, ampliando sempre più la collaborazione con le istituzioni che si occupano di analoghi problemi negli altri paesi europei. Vi ho accennato già i rapporti particolarmente stretti che abbiamo con vari istituti, con il SOMS di Tour e poi anche con le istituzioni dell'Europa orientale, come l'Accademia delle Scienze di Varsavia, la sezione di storia e filosofia e sociologia, nel quale abbiamo un corso lavori di ricerca comuni sulla storia degli eretici italiani in Polonia, per esempio, e sulla storia poi anche dei rapporti tra la cultura polacca e la cultura italiana nel Rinascimento, e lo stesso con la sezione dell'Istituto di Storia del Rinascimento dell'Accademia delle Scienze di Polacca, e poi appunto con molte istituzioni americane. I rapporti con gli studiosi americani sono molto stretti, sia della presenza appunto della Harvard Foundation, sia proprio anche di stretti rapporti che ci legano a studi grandi studiosi americani, soprattutto a Paul Potter. Quanto ai problemi poi della istituzione, sono moltissimi. L'istituto ha scarsi finanziamenti governativi della regione Toscana e il comune di Firenze, che sono sufficienti, date anche le grandi spese che ci vengono dall'essere installati in un palazzo molto prestigioso, ma diventa sempre più costoso. Non abbiamo personale, questo è un altro fatto molto grave, non è previsto né comando di professori, di studiosi presso l'istituto, non è prevista anche la possibilità di dare corso di studio, dato che in fondo in Italia c'è stato un blocco in sostanza delle borse di studio che si trasformavano poi di fatto in impieghi stabili, e abbiamo anche molta difficoltà con a trovare collaboratori per le varie ricerche, che dobbiamo soprattutto pagare in modo abbastanza misero. Ci troviamo quindi anche in situazioni non facili, anche perché non abbiamo una struttura organizzativa e amministrativa solida, soltanto ora si spera che venga approvata la pianta stabile dei impiegati, pochissimi, 3 al massimo del distretto, e quindi questo rende insomma tutto molto difficile e anche impegna gravemente tutti di fronte a problemi che sono sempre crescenti. Speriamo che si possa divenire, non sappiamo entro quali termini e se la cosa poi potrà avere una qualche realizzazione positiva, di poter giungere alla formazione di una scuola che era già stata prevista, la cui istituzione era stata prevista in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, che avrebbe dovuto raccogliere una specie di di istituzioni fiorentine di carattere però nazionale, come la fondazione Franceschini e d'altra parte l'Istituto di Storia della Scienza, per giungere proprio a costituire una scuola di specializzazione di studi d'arte medievali e di studi rinascimentali. Firenze è la città che si occuperebbe meglio che in Italia per un'iniziativa di questo genere. Purtroppo le crisi politiche che si sono rovesciate in questi anni sull'Italia hanno impedito, almeno per il momento, il proseguimento di questa iniziativa. Alla fine, però, speriamo, un buon tornata di poter giungere e che darebbe una molto maggiore solidità a queste situazioni, inserendole poi anche nella attività, non certo didattica, universitaria comune, ma a un livello di specializzazione di carattere contenuto internazionale, perché la scuola dovrebbe avere questo carattere non nazionale. Per il resto, i problemi più gravi che si presentano sono appunto quelli di dare una solidità e una più forte organizzazione dell'istituto e soprattutto quello di estendere sempre la nostra apertura alle istituzioni europee, anche non solo europee, ma anche del mondo americano, perché certamente lo studio dell'umanesimo e del rinascimento non può essere che uno studio di carattere internazionale, di carattere europeo. L'umanesimo è un grande fenomeno praticamente vero europeo, nato in Italia, ma dato questo uno dei grandi elementi unificatori della cultura europea, sappiamo bene vero, che fino si può dire alla vigilia della rivoluzione francese la cultura europea continuava ad avere basi fondamentalmente umanistiche attraverso un'organizzazione degli studi e delle istituzioni anche scolastiche che era praticamente comune per molti elementi a gran parte delle culture delle civiltà europee. Perciò uno studio del rinascimento dell'umanesimo non può essere che uno studio a carattere europeo. Europeo che ha aperto anche agli sviluppi che poi questo umanesimo ha avuto anche in secoli successivi, ovvero anche nel mondo americano. Basta pensare all'influenza che l'umanesimo, soprattutto francese, e inglese, ha avuto per esempio all'inizio. Quindi credo che questi siano i compiti che perderanno in tutti i prossimi anni, se appunto noi abbiamo però la possibilità di continuare e anche la possibilità di estendere e ampliare la nostra opera in questa direzione europea e in questa direzione molto europea, sempre tenendo molto conto però della dimensione anche nazionale italiana e anche poi naturalmente della complessità, molteplicità dell'umanesimo italiano articolato variamente secondo le varie culture regionali, soprattutto il centro e il nord dell'Italia, ma anche con grandi fenomeni umanistici assunti come prima di Napoli, soprattutto nell'età aragonese e anche il centro e il sud della storia. Grazie.